Uno è perché è prevista la chiusura di alcuni uffici postali in regione, parliamo di 14 uffici postali, e poi c'è un piano di razionalizzazione che prevede la disattivazione dei doppi turni e in alcuni casi anche l'apertura a giorni alterni. Sostanzialmente si ripristina quello che era l'apertura degli uffici postali quando c'era il periodo del Covid, che diventa adesso in questo modo strutturato. Quindi questo determina una riduzione sicuramente del servizio e in alcuni casi anche un enorme disagio per le comunità, insomma, cui il servizio postale viene offerto. In particolare, appunto, la chiusura di questi uffici avviene in territori che già sono periferici, quindi insomma hanno già pochi servizi. In alcuni casi avviene in centri urbani. Naturalmente noi siamo più preoccupati quando riguarda alcune zone appenniniche, quello sicuramente, perché lì insomma significa, soprattutto per alcune fasce più deboli, insomma, quello di spostarsi, mi riferisco soprattutto agli anziani oppure ai fragili, insomma, significa spostarsi e fare anche dei chilometri per avere l'accesso all'ufficio postale. In tutto questo, questo piano è anche un po' in contrasto con un progetto finanziato dal PNRR che in realtà dovrebbe aumentare. Questa è la contraddizione, perché da una parte abbiamo, diciamo, il PNRR che ha previsto il cosiddetto progetto Polis, insomma, quindi dei finanziamenti perché Poste Italiane, oltre ad essere una rete di vendita, anche una piattaforma di servizi, mi riferisco per esempio adesso al rilascio del passaporto e altri tipi di servizi, e quindi per alcune comunità avere questa piattaforma di servizi e quindi di accesso a alcuni servizi pubblici diventa fondamentale. D'altra parte anche la privatizzazione di ulteriore quota azionaria di Poste, oltre ad avere un impatto sociale, da un certo punto di vista è anche antieconomica, perché è un'azienda ancora sostanzialmente a controllo pubblico, perché il Ministero del Tesoro detiene circa il 30%, l'altro 35% è detenuto da Cassa Depositi e Prestiti, quindi i profitti vanno sostanzialmente a pubblico. Privatizzare significa portare una rendita finanziaria sostanzialmente che è in mano pubblica, in mano ai privati. Ecco perché come CGL siamo anche contrari all'ulteriore privatizzazione di Poste, che significherebbe anche avere degli impatti sulla tenuta occupazionale, anche sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Colpisce che oltre all'SLC ci siano anche lo SPI-CGL e Federconsumatori, c'è una sorta di alleanza tra lavoratori e cittadini. Esatto, perché mentre adesso siamo ancora agli inizi, diciamo, l'impatto sui lavoratori e sulla lavoratrice è relativo, però per quanto riguarda alcuni tipi di comunità, mi riferisco a zona rurale, appenninico oppure in alcune cose, avere la chiusura dell'ufficio postale può rappresentare un notevole disagio. Ecco perché ci è sembrato corretto e giusto operare in sinergia sia con la Federconsumatori che con il sindacato, con lo SPI, con i pensionati. Voi chiedete alle istituzioni di dire, cioè di fare pressioni su Poste? Sì, in alcuni casi, diciamo, è stato fatto in altre regioni anche un ricorso al TAR da parte dei sindaci, insomma, con esiti altalenanti, però certamente, insomma, io penso che il sindaco di una comunità dove viene chiuso l'ufficio postale, insomma, i cittadini si rivolgono anche al sindaco, insomma, per avere l'ufficio aperto. Il tema è che è l'orientamento, cioè la direzione in cui si va in questa direzione di privatizzare questa azienda, che comunque è un'azienda che fa utili, insomma, è un'azienda che in alcune realtà è fondamentale per i servizi che offre. Poi dopo c'è anche il tema che ci sono alcune fasce di popolazione che dal punto di vista digitale sono un po' svantaggiate, quindi non tutti riescono a fare le operazioni, insomma, con le app e cose, ma hanno bisogno di qualcuno con cui interloquire per fare alcune operazioni, e queste li devono fare sicuramente a sportelli.